Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla anni... bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo. Non posso farlo, non posso. Ma se farlo, non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, ma pirla. Non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare, non chiamare, non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché si litiga sempre questa trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senti, io sono qui a farmi un cannone col mio amico Lorenzo. Sì. E volevamo dirvi che praticamente l'erba potrebbe dare una grossa mano con questo cazzo di Covid e questa follia che c'è in giro. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice che addirittura fumare fa bene contro il Covid. Fumare fa benissimo. Lo sostengono alcuni grandi legalizzatori, però questo non credo, come dice. Tu stai compiendo un reato con il tuo amico, sai? Ma non dire cazzate. Stupefacente. I carabinieri dovrebbero venire ad arrestarti. Ma non dire puttanate, dai. Che cazzo ci fai in giro alle 7:30 in una regione alla parazione? No, noi siamo a casa e lui abita. Il tuo amico, io spero che il tuo amico lo fermino i carabinieri. Ma perché? Positivo alle sostanze stupefacenti e pissino sopra la patente. Devono pisciare sopra la patente del tuo amico. Dovrebbero pisciare perché questo si droga. Una canna non è una birra. Ma chi te l'ha detto? Dipende quanto ne fumi, rincoglionito. Dipende quanto ne fumi. Ma fanculo veramente, a te ti fa male. Ma il demone, sai quanta gente ammazza la gente per strada come te? Gottardo, te sei il classico esempio di persona che se si fosse drogata un po', saresti più contento invece di essere così represso e di mangiare quintali di roba. Tardo, palla di merda, chiudi quella cazzo di bocca, non sai una fava. I tuoi genitori hanno anche figli normali, Gottardo. Se avessi fosse fatto una canna ogni tanto e avessi adottato uno stile di vita più sano, però non sarebbe là a fare le marchette in quel di Abano. Il recupero, che cazzo sta facendo? Allora, se non ci fosse la gente come te, sai quanti soldi risparmieremmo, per i diabetici, per gli ipertesi, per gli obesi in generale, con tutte le malattie che hanno e tutti i soldi che ci costano. Poveretto, sei un poveretto. Comincia adesso a fumare, che vedrai che ti fa bene, coglione, comincia. Smack my bitch up. Oh, bene mia. Per la faccia di Gottardo e di tutti quegli altri pezzi di merda che mi devono dire come vivere e come non vivere, mi faccio una canna, bene mia, e sto da Dio. Ragazzi miei, ho raggiunto Gottardo qui ad Abano Terme. Ho raggiunto Gottardo. Sì. L'ho raggiunto e la prima cosa che ho trovato è mutande sporche di merda dentro un bagno. Mutande sporche di merda abbassate dentro questo bagno qui dove sono andato pochi istanti fa. Il bagno era coperto da mutande sporche. Ma cosa cazzo stai dicendo? Mamma mia. Potrebbe finire in tribunale questa puntata da Abano Terme e anche le prossime, sai Giuseppe. Ragazzi, la cosa sicura è questa. E poi faccio le presentazioni. Sei scappato. No, ma lascia perdere. La cosa sicura è questa: che Parenzo ha tutto il mondo omosessuale contro. Aspetta, per aver detto che chi va con un transessuale è svalvolato, chi va è svalvolato e anche malato. È anche malato, primo. chi va? Secondo, chi va? Sì, disturbato, chi va? Malato, eccetera. Chi va? E chi l'altro va? Invece chi Gottardo? E l'altro invece Gottardo? L'altro invece... Sto facendo una battaglia di legalizzazione. 5.000 telefonate, mail, eccetera, di gente che vuole farsi i cazzi propri, vuole fumarsi la propria canna, e lui dice invece che sono dei drogati. Non è un diritto drogarsi. Ah, non è un diritto farsi una canna. Come no? Non è un diritto farsi la vostra tossicodipendenza non è un diritto. Ma come quindi no? Non rompetemi farsi i coglioni. Canna, non rompere scatole a nessuno. La tossicodipendenza non è un diritto. Ma farsi una canna non è tossico di essere tossicodipendenti. Ma che non sei altro. Omofobo da Roma. Ma tutte le battaglie dalla parte dei diritti dei transessuali. Allora ragazzi, l'avete capito, in collegamento da Roma David Parenzo. Buonasera cari amici, non sono scappato. Sono qui al mio posto e non sono scappato. Ma vai a cagare, vai a cagare. Tu sei scappato con la coda tra le gambe, scappato. Nella stanza accanto, mollemente adagiato su quella non minchia di letto. Non si sente un cazzo, non si con sente il bagno, un cazzo. Con il bagno, mutande sporche niente, di merda, dai. Alberto Gottardo, applausi. Eccomi. Ma non si sente un cazzo, io, ragazzi. Non io si nella può mia fare. Magnanimità, nella mia magnanimità, accetto persino i profughi dalle zone rosse. Bravo, qui nella esatto. Grande suite dell'albergo, di cui non diciamo il nome, così non è neanche una marchetta. Allora, ragazzi, dirvi una cosa, posso dirvi una cosa, il personaggio del giorno, però il personaggio del giorno ma è un non altro. si chiama Dollivio Fantagano. Davide, stai calmo, è Dollivio Fantagano. Faccio anch'io così, ma non si sente niente, non è possibile, dai, non si sente niente. Benissimo. Peraltro, sai cosa? Peraltro ho sentito prima Barisoli, voglio dire solo questo, poi mi sto zitto, tanto non si sente un cazzo. Ha parlato per 20 minuti di fondo rotativo. Il fondo rotativo, amico mio, l'ho sentito, ero qui. Il fondo rotativo, 20 minuti di fondo rotativo. Cos'è il fondo? Il fondo rotativo. Io voglio ma come rimandare... ti permetti? No, ma era ma ottimo. Ma come ti permetti di contestare Barisoli? No, non contesto, ma 20 minuti di fondo il rotativo. Il vicepresidente. Amico mio, fondo... Io... Possiamo sentire solo un pezzo di fondo rotativo? No. Tanto non si sente un cazzo. Di là, da Abra non si sente niente di quello che state dai, dicendo. Davide. Meglio dai, andare Davide. Il fondo dai, rotativo, te lo ti dico prego. Io. Fondo rotativo. Allora... Il personaggio del giorno, ragazzi, si chiama Don Livio Fanzaga è il top del top. Ora voi lo attaccherete. Voi lo attaccherete. Il direttore di Radio Maria ha attaccato tutte le parti. Gli dicono, sì, sicuramente gli dicono che è un personaggio pericoloso. Qualcuno, qualche maestrino già punta il dito e non dovrebbe parlare. Ma certo. Ma come non dovrebbe parlare? È pericoloso quello che può parlare, ma dice libertà. Delle stupidaggini. Libertà per Radio Maria, nessuno tocchi Radio Maria, questa è la mia posizione. Ma nessuno di la oggi. Tocca, ma si può dire nessuno che è una scemenza. Nessuno tocchi Radio Maria, ma certamente dai, è una scemenza. Io l'ho combattuto Dolivio Fanzaga ai tempi in cui non era conosciuto e l'abbiamo tirato fuori noi come personaggio e come matto. Ma va difeso, quindi stai dicendo che è un matto, stai dicendo. È un po' è un mattoide, va bene, ma ha le sue idee, ma qual è il problema? Che è Radio Maria, non è la Zanzara. A chi fa male? È Radio Maria, non è la Zanzara, questo ma è il problema. Saranno cazzi di chi dà i soldi, questo non c'è dubbio. Dai, forza. Allora, Don Livio Fanzaga cosa ha detto? Che è un'epidemia lieve. Partiamo da qua. Possiamo dire un anno di distanza che si tratti di un'epidemia lieve. È un'epidemia lieve. Per il tasso di mortalità che è molto basso. E questo diciamo è quello che diciamo anche io e Gottardo puntualmente. Ah, certo. Esatto. Dicono i numeri. Allora, la Madonna ci ha detto e che Satana miete le vittime. Senti. Fare valutazioni di statistiche qui è inutile. Bisogna riferirsi ai messaggi che ha fatto la Madonna. Cioè, quando la Madonna ha detto Satana miete le anime. E questo l'ha detto nel luglio scorso, quindi... Voglio dire, a livello religioso, la Madonna ha fatto affermazioni perentorie. Avete abbandonato la fede, avete abbandonato la croce. Ma che c'entra la fede? Avete messo Dio da parte Dio, avete messo voi stessi al posto di Dio. E poi è arrivata frasi di una durezza incredibile quando ha detto Satana regna. Satana regna. Ma cosa c'entra Satana? Secondo la Madonna. Ma pazzesco. Però scusami, se Satana regna vuol dire che è in vantaggio, devi mettere un attaccante in più. Figurati. Anche lì, l'altra volta senti era questa, andata bene. Senti questa, eh? Bandito Dio e allora si sono aperte le porte al diavolo. Cioè, siccome pare, secondo lui, che nessuno segua più Dio, la religione, eccetera, si sono aperte le porte per il diavolo. Ma cioè quali per il porte per il diavolo? Sì, però deve parlare questo tizio. Libertà. Ma nessuno libertà, dice niente, ma diciamo che è una libertà. Ma che libertà? Per... ma diciamo che è una follia a milioni di fedeli e dire delle puttanate simili e poi indurre i fedeli a pensare che siano cose vere. Aspetta, ma c'è ancora di peggio. Aspetta, tanto sentiamo questo. Cioè, Dio è stato bandito, assolutamente bandito. Cacciato fuori, ma da chi? Le porte solennemente sprangate, però da chi? Però in compenso al diavolo sono state aperte tutte le porte, per cui ormai regna, cioè fai c'è una puzza di merda dietro queste porte, altro piace diavolo. Fare dietro la porta del bagno c'è la puzza di merda di Gottardo, non c'è il diavolo. Mamma non c'è mia. Il diavolo. Ma poi è un autogol pazzesco, cioè vuol dire che la Chiesa non sta contenendo Satana, è un problema della Chiesa, scusami, sono loro che devono farlo. Beh, io non entrerei nel merito dello studio di qui viene il meglio di Don Fanzaga, che viva per sempre Don Fanzaga. Ma questa epidemia è un progetto, no, perché qualcuno vuole tarpargli la bocca. Qualcuno vuole tappargli la bocca, qualcuno vuole tarpargli il volo. Ma no, ma se a Radio Maria sta bene che ci sia un signore che diffonde. È pericoloso. Dice che diffonde fake news, quello sicuramente. I fedeli potrebbero essere tratti in inganno. Sono idee, non è fake news. Sono idee. No, non è idee. Sono fake news. Questa epidemia è un progetto. Senti. L'idea di fondo, che ho detto fin dall'inizio, è che questa epidemia è un progetto. Quindi non è casuale, non viene dagli animali, non viene dai pipistrelli, non viene dal mercato di Wuhan. E non è uscita neanche per caso dal laboratorio di Wuhan. Per me questa epidemia è un progetto. Attenzione, questa epidemia è un progetto, una simulazione fatta dalla fondazione di Bill Gates. Sempre Bill Gates, ragazzi, ma... perché c'è sempre questo Bill Gates, come diceva l'altro giorno Papalardo? Perché c'è sempre Bill Gates? È una questione di virus, bisogna mettere l'antivirus. Cioè, uno pensa che Bill Gates abbia creato... No, perché il pensiero, ragazzi, riducendolo all'osso, è questo. Ci sono un numero consistente di persone che pensa davvero che Bill Gates abbia creato il virus... per poi utilizzarlo per tutte le sue investimenti nei vaccini. Tu hai alimentato anche tu sta cazzata, l'hai alimentata nel corso degli anni. No, io faccio parlare le persone. Ma non hai mai detto sono puttanate, non gli hai mai detto ma siete diciamo dei fregnacci. Giorno, non sono ci credo solo, questa solo cosa. A combattere, solo, sono ma da solo, solo a combattere sei Soros, contro sei questi. Soros, magari, ma se fossi Soros non sarei qui tutte le sere a discutere con delle teste no, di cazzo. No, perché tu li prendi anche da Soros. Ma li vuoi fino all'ultima goccia, è per quello che stai anche qui. Soros e Confindustria. Confindustria e Soros. Vai. Comunque vai, io voglio capire, ma il fondo rotativo. No, fammi sentire la simulazione il fondo rotativo. Vai. Si è immaginato una epidemia che partiva dal Brasile, si diffondeva in tutto il mondo e causando 60 milioni di morti. Vabbè. Questa era una simulazione fatta dalla Fondazione Gates. Dico cose che ormai sono notissime, quindi non cose campate per l'aria. Progetto dei demoni con lo scopo di un colpo di Stato. Sì, il progetto dei demoni scimmia. Il progetto dei demoni, sembra il progetto dei demoni scimmia. Vai, è dopo un progetto, questo, vai. Ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio. Sapete tutti che ho sempre detto così. Il demonio agisce attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali. Hanno realizzato questo progetto, l'hanno realizzato delle menti criminali, l'hanno realizzato con uno scopo ben preciso. Lo scopo era creare un break, un passaggio repentino ormai, dopo tutta la preparazione ideologica che c'era stata, c'erano tutti i presupposti per creare una specie di colpo di Stato sanitario o colpo di Stato, come volete voi, mass mediatico. Ogni sera ed ogni dì voglio fatto un CPC. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ma perché non usate il termine adatto? Scusate, chi va con un transessuale praticamente è un po' ricchione. Ehi, Parenzo, sei caduto in contraddizione. Hai sempre sostenuto che non fumavi da anni, ma nell'ultima puntata hai detto che non fumi da mesi. Attenzione, si scoprono gli altarini. Oltre ad andare a trans, fuma le canne il nostro Parenzo. Vai, David, uno di noi! Allora ragazzi, una giornalista di Libero che si chiama Azzurra Noemi Barbuto ha scritto nei giorni scorsi, dopo il naufragio che c'è stato con la morte di alcuni immigrati nel canale di Sicilia, non so dove, nel Mediterraneo, eccetera, ha scritto un tweet per cui è stata attaccata da tutti dicendo che è una cosa cinica, giustamente, una roba indecente, una roba disumana. Ha detto, ma perché una cosa li difendi semplice, tutti? Ha detto la pura perché e semplice verità. Ma dai. Allora, ragazzi, siccome la gente non sa di cosa stiamo parlando, vi leggo quello che ha scritto e poi ditemi voi che siete all'ascolto, cioè, se non ha ragione so questa signora scritto, oppure no. Tu lo sai, un sacco di gente non lo sa, non è che segui il Twitter, perché giustamente non legge Libero, giustamente perché non leggono Libero, è giusto. Ma no, non è, giusto. È una roba di Libero, è una roba dell'internet questa cosa qua. Ma allora, no, è una giornalista di Libero. Rivolgendosi alla madre che ha perso il figlio di sei mesi, di sei anni, annegato, sei mesi annegato. Scrive: hai perso il tuo piccolo sei mesi perché lo hai buttato su un gommone con un centinaio e più di persone ammassate una sull'altra. Che cinismo. In autunno inoltrato, con il freddo e il mare grosso. Ma scappava dalla fame e dalla guerra. Perfettamente ragione. Ma che dici? Ma scappava dalla fame e dalla guerra. Perfettamente ragione. Ma chiunque salverebbe, proverebbe a scappare. Ragione. Ma tu sai che le persone provano a scappare. Ma guarda, ma allora scusa, c'entra? Che cosa avresti detto con quelli che scappavano dalla Germania? È morto per la disperazione. Ma certo. Un bambino di sei mesi portato dalla madre ti faccio un altro esempio. Mio padre nel 1942 era appena nato, aveva due mesi e scappò con mio nonno e mia nonna a piedi in Svizzera, passando il confine, perché c'erano i nazisti. E scapparono di notte in Svizzera. Ma e qualora i tedeschi fascismo, e qualora li avessero presi, sarebbero morti, il ovviamente. Il viaggio, no, ma c'è la fame, la guerra. E quindi, se tu devi salvare tuo figlio, fai qualunque cosa per salvare tuo figlio, fai qualunque cosa pur di non stare in una condizione di necessità, di disperazione. Ha scritto la pura verità, ha scritto una cosa madre, di un cinismo e di una stronzaggine unica. È veramente una stronza, te lo posso dire, è una stronza, perché ha scritto delle cose di un cinismo unico. E allora la mia è un'opinione e dico che ha scritto una stronzata, davvero. Ma neanche la Fallaci avrebbe scritto. Ma la Fallaci era una scrittrice, la Fallaci. La Fallaci era una signora scrittrice. Feltri la definiva una stronza, quindi insomma, sì, poi la scuola è quella. Tra l'altro. Comunque ha scritto una stronzata. Allora, ragazzi, galattica. Sentiamo De Luca scatenato. Raro. Sentiamo De Luca scatenato da Fazio contro tutti, praticamente contro tutti. Anche a Milano c'è stato un morto in bagno in un ospedale. Conte richiami Di Maio che fa sciacallaggio, c'è Di Maio che fa sciacallaggio sulla Campania, tutti contro tutti, delle nullità che si fanno pubblicità su di me. De Luca, vai. Devo ricordare a tutti quanti che il 17 giugno di quest'anno c'è stato un morto in un ospedale di Milano, non se n'è accorto nessuno, era morto in bagno anche lì. Beh, io credo che il Presidente del Consiglio abbia il dovere di non fare il cardinale di curia, ma di richiamare i ministri ai doveri di buona educazione, di correttezza istituzionale e di onestà intellettuale, perché non è tollerabile che un ministro si metta a fare sciacallaggio sulla base, peraltro, della più completa ignoranza. Cioè, ci sono delle nullità che pensano di farsi pubblicità litigando con me. Io tempo da perdere non ne ho. E chi è una nullità? Una nullità rimane. Si rivolgeva al sindaco di Napoli. Cioè, secondo voi la Campania se la può cavare quando il sindaco di Napoli e il governatore della Campania litigano ogni giorno? Ogni giorno se ne dicono di tutti i colori, secondo voi? Di tutti i colori. Vabbè, ma la Campania è bella se non è litigarella. Allora, quindi. Eugenio da Pordenone, iniziamo la sarabanda, caro David. Eugenio da Pordenone. Eugenio da Pordenone. Da una regione arancione. Sì. Fino alla scorsa settimana avevamo dei vecchi in giro come zombie, avvinazzati, assembrati alle 9 della mattina in osteria a bere ombre. Poi vai a vederti i bollettini e leggi 95enne in casa di riposo, 93enne all'ospedale, 88enne in una RSA. Allora il lockdown devono farlo ai vecchi, perché hanno rotto i coglioni. Se mai anziani, quelli che ti hanno messo al mondo, peraltro, anche sbagliando. Scusa un attimo. Allora, invece di intervenire, pensa alla moglie che ti sta trascullando. Gli anziani, i vecchi. Con una bella anche tu diventi pure tu. Tu non sei vecchio, tu sei un povero rincoglionito. Fermi tutti. Eugenio, torniamo ai vecchi. Non ho capito perché dovrebbero sparire i vecchi. Non ho capito. Dovrebbero sparire. I vecchi dovrebbero fare il lockdown ai vecchi e non vedere i bambini che a scuola non possono fare ginnastica, non possono usare strumenti a fiato, non possono fare un cazzo di nulla. Mascherine sempre su, sepolti in casa. Ma tu odi i vecchi, questa è la realtà. E poi chi sono i vecchi over 65? Chi intendi? Tu odi i vecchi, li vorresti morti, li vorresti vedere sparire tutti quanti. Questa è la realtà, Eugenio. Ma sono questi che stanno creando il problema, quelli che l'hanno mantenuto fino all'altro giorno. Era stipendiato dai nonni, dai vecchi, perché non ha mai fatto un cazzo in casa sua. Quelli che sono andati, non hai mai fatto niente a casa sua. A vent'anni di contributi, quelli Fabrizio da Milano. Non lo so se è Fabrizio lui, non lo so. Parenzo, sei soltanto un coglione. Buonasera e benvenuto. È un altro. Ma benvenuto che cosa? Grazie per aver chiamato. Ma sei un essere ignobile. Grazie per aver chiamato, buonasera. Fabrizio? Ma perché sui trans, ragazzi, ha fatto un altro che va a trans. Come quelli che vanno a prostitute. Essere odiato da quelli che vanno a prostitute, perché li ho definiti miserabili, quelli che vanno, non sì, le prostitute. No, quelli che vanno a trans, hai detto. No, quelli che vanno a trans. Certo, come ho detto, quelli che vanno coi trans. No, ma ti ripeto che quelli che vanno a prostitute. Aspetta, te lo ridico. Quelli che vanno a prostitute. Chi va con i trans, hai detto, è uno svalvolato, assolutamente. Chi va a prostitute è un miserabile. E io credo in entrambe le categorie. Chiedi scusa, fermi tutti. Hai detto una stronzata. La zanzara. Se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. No, quindi Davide, ricapitoliamo perché sono un po' confuso. Se io dico che due uomini che si baciano mi fanno schifo, merito una sanzione. Se chiamo frocio un omosessuale, merito una sanzione. Però poi posso chiamare malato un transessuale, posso chiamare pervertito chiunque vada con loro e posso dire che a gusto personale mi fanno schifo i transessuali. È questo, David? O ho capito male io? No, perché io ricordo uno che diceva che tanti bambini si sono tolti la vita perché li chiamavano froci. Bene, David, dopo venerdì tantissimi transessuali e compagni di transessuali probabilmente ci stanno pensando. Proprio per le parole dette da te, tra l'altro una persona da cui uno non se l'aspetterebbe. David, va bene che la coerenza non è mai stata il tuo forte, ma vattene a fanculo, va, coerentemente. Mamma mia, che battaglia, ragazzi! Non è così in realtà, è vero, un'unica correzione da fare. Non ha mai detto che gli omosessuali e i transessuali sono malati. I transessuali ha detto che sono malati. Anzi, ha detto che sono malati. Chi va e lo rivendichi. Come ho detto, ad esempio, che sono dei miserabili. Chi va a prostitute, non le prostitute. Ma tu sei graziato dal fatto che la legge TAN non c'è ancora. Con la legge ZAN tu potresti andare in tribunale. Per assolutamente quello che hai detto, io ti difenderò. Ma no, ho già gli avvocati di buon diritto. Non ti preoccupare, ho già gli avvocati di buon diritto. Guarda, ti posso dire questa tua frase: c'è qualcuno che se si impunta, non capite. Se si impunta, ti porta in tribunale. È transfobia, chiaramente. No, non è contro i trans, è contro chi ci va. Ma chi li usa? Ma che roba chi è? Chi va, chi li usa, è conto, contrario. Ma te ne rendi conto? Ma scusa, un uno non si può innamorare di un transessuale, non ho capito. Quello sicuro, uno si può innamorare. Ma io sto parlando della prostituzione, che è un'altra cosa. No, non girare intorno a questa roba. Tu hai detto, chi va con un transessuale è malato. Ma senza precisare, chi va con un transessuale è malato. Come ho detto, delle prostitute, io ho sempre lottato per i diritti delle prostitute, non ho mai criticato la prostituta in sé. Da dove nasce questa roba qui? Da dove nasce qual è il trauma? No, qual è il trauma tuo, Davide? Ma non c'è nessun trauma. Cosa è successo? Nasce da una telefonata, non c'è alcun fake che abbiamo creato. Ti faccio sentire la telefonata pulita che ci è arrivata dal deep web, chiunque può mandare una telefonata dicendo che schizzi di merda per dire l'ambiente dove sei. Allora Barbara, mi dicevi che dopo aver ascoltato David Parenzo la Zanzara un paio di giorni fa affermare di non essere interessato alla terza azienda, come dice lui, ossia i trans, hai deciso di rilasciare questa intervista. Non pensavo si potesse arrivare a questo livello di ipocrisia, mi hai detto. Mi sono stufata, voglio raccontare tutto. Sono parole che mi hanno profondamente ferita, è veramente un bastardo. Qual è il tuo vero nome, quello all'anagrafe, intendo, se posso chiedertelo? Marco Paolo, ma non lo posso sopportare. Ormai io da molti anni per tutti sono Barbara. Quando hai conosciuto David Parenzo? Un paio di estati fa sull'isola Tiberina. La presentazione del libro di un amico in comune. Ecco, da quello che mi hai detto non è stata l'unica volta che vi siete visti. Assolutamente no. Da quella sera hai iniziato a telefonarmi a tutte le ore. Poi qualche giorno dopo ci siamo visti a pranzo in un noto ristorante di lusso. Sì, io ho iniziato a conoscerlo meglio. Sì, naturalmente sono andato al ristorante. Nel senso che al momento del conto si è alzato per andare in bagno e non è più tornato. Ho dovuto pagare io. Poi mi ha mandato un messaggino con un milione di scuse, cose così. E quando ci siamo visti la prima volta nel mio appartamento sulla Cassia, assolutamente ha portato un mazzo di fiori rinsecchiti, una roba terribile. Mazzo di fiori. Quando dici nel tuo appartamento, immagino, insomma, non venisse certo a giocare a nascondino. È per questo che mi sono incazzata. Quando l'altra sera diceva di non essere interessato a certe cose, me lo immaginavo nudo con le chiappe al vento mentre mi diceva ti prego fammi subire, fammi male, quelle cose che diceva lui, insomma. Ha un'indole passiva, quindi. Totalmente passiva. Cosa, cosa grave? Quante volte anche vi siete quello visti? Che fa la pseudo intervista, quello grave. La cosa essendo grave, il tuo lavoro, quello, immagino, a pagamento. Sì, ma anche su questo è un dito al culo, come si dice a Roma. Sempre a chiedere sconti, 3x2, oppure mi dice di frustarlo gratis. Quindi ci stai dicendo che ha anche delle tendenze sadomaso. Cioè, il criminale, vuole essere schiavizzato, legato al letto, supino con il manetto, con la corda. Poi ama essere preso a frustate sul sedere mentre gli dico che è stato cattivo. Ogni tanto nei suoi deliri mi chiama Urbano e mi chiede di urlare che non è un bravo giornalista. Posto, diciamo, mi vedete solo per questo? Ogni tanto facciamo una passeggiata, squilla al telefono ogni 2 secondi. La maggior parte delle volte è qualche baldracco o qualche altro trans. Ma come si permette? Poi ogni tanto, di punto in bianco, assume un tono dimesso da schiavo, dice solo cose del tipo sì certo, come vuole lei sarà fatto, farò tutto quello che dice lei, mostrando, diciamo, la sua vera anima da scendiletto stropicciato. E penso che possa bastare. Grazie Barbara. Grazie a te amore. Questo il documento. Beh, questo stronzo che fa la falsa intervista. Chi è l'altro stronzo? No, dico, l'altro stronzo che fa la falsa. Ma non è un documento, è deep fake proprio. Deep fake. Paolo da Milano, ragazzi, torniamo agli ascoltatori. Paolo da Milano, questo è il documento da cui tu poi hai preso spunto per dire che chi va a transessuali è un malato. Ho detto che io frequento un'azienda tradizionale. No, tradizionale. Tu hai detto che andare, dopodiché, se uno va chi con va, un transessuale chi è malato. Questo chi è il punto. Ha una sua famiglia, ad esempio, Paolo da Milano, e ha delle relazioni e vuole trovare una terza via, secondo me. È un mezzo sbaglio, ma non è ancora. È come dire che la prostituta, diciamolo all'osso, no, però, se tu prendi il cazzo di un trans, ma no, sei ma malato. Io, no, no, aspetta un attimo. Dilla chiara, come quelli che criticano le prostitute. Porca no, puttana. Io critico chi va a prostitute, non le prostitute. È radicalmente diverso, Cioè io non considero miserabili le prostitute, anzi. Paolo da Milano. Considero miserabile chi le sfrutta. Di transessuali, non di prostitute. Uguale. Ma non è uguale. come tutti i trans si prostituiscono, Davide, certo, abbia un po' di rispetto. Ma su quello non c'è dubbio. Abbia un po' di rispetto. Un transessuale non può avere un fidanzato o una fidanzata. Ma certo, quello è un altro tipo di rapporto. A lui fa quello schifo. È un altro tipo di rapporto. È incredibile. È incredibile. Paolo da Milano, vai. Quello è un altro rapporto, certo. Allora, senti, Parenzo, guarda che vecchio e anziano sono sinonimi. Quindi, prima cosa, quindi il punto che voglio fare è questo: i vecchi dovrebbero essere ammazzati da bambini, come diceva Gaber. No, i vecchi vanno ammazzati da bambini, diceva Gaber. Non ho finito. Se dico una stronzata, me la giudichi dopo. Sta per arrivare. Vai. Perfetto, grazie, molto gentile. Preventivo. Dovrebbero essere grati perché i bambini non muoiono di Covid, nonostante questo, stanno a casa. I giovani non muoiono di Covid, nonostante questo, non si divertono, eccetera, eccetera, eccetera. Queste limitazioni della libertà personale che loro hanno, che abbiamo dato noi generazioni cinquantenni, noi generazioni cinquantenni, lo facciamo per salvare loro. Non solo. Non solo loro. Loro e basta. Anche i sessantenni. Non è vero. Qual è la soluzione, Paolo? Qual è la soluzione? La soluzione qual è? No, aspetta un attimo, non ho finito, Giuseppe Cruciani, abbi pazienza. Quindi ma la soluzione io non, qual io è? Non ti do la soluzione, dico semplicemente che invece che accanirsi contro questi poveri cristi che pagano le conseguenze, giuste o sbagliate, io non lo so perché le ha deciso il governo. Invece di accanirsi contro questi poveri cristi che non possono andare a scuola, non possono uscire, non possono bere, non possono vedere gli amici, per esempio il buon Lino Banfi, invece che dire che sono 15 milioni e quindi non si può andare contro di loro perché sono troppi, dovrebbero semplicemente dire grazie, perché qualcuno sta rinunciando a una parte della loro vita. Ma che stronzate, le tue stronzate le sento due volte, le sento l'eco delle tue stronzate, guarda, sì, stai parlando e sento l'eco delle tue stronzate, che vuol dire che devono dire grazie, ma i nostri anziani sono anche lui, non vabbè, sono Gianni soltanto da Brindisi, Gianni da Brindisi, vai Gianni, dimmi. Pronto, buonasera Gianni, signor Cruciani. Vai, dimmi. Sì, sono allora io. Senta, io l'ammiro tantissimo ogni sera, cioè ogni giovedì quando è invitato dal dubbio, il diritto e rovescio. Del dubbio. Sì, ok, vabbè. Allora, lei è un uomo che ha nessun peli sulla lingua, No, i peli su, ce l'ho nel culo se vuoi, i peli. Sto dicendo che lei parla delle cose vere, serie, ok? Vere, certo. Bello avere dei complimenti da questo. Scusi, per chi ha votato lei? Per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Per inquadrare il soggetto, il personaggio. Per chi ha votato lei? Gianni da Brindisi, signor Gianni. Sì. No, io non ho votato per nessuno. Io volevo chiedere solo una cosa. Sì, dimmi Gianni, dimmi. In tutte le trasmissioni televisive, perché non si parla mai dei tempi in cui viviamo? Perché non si parla mai delle grandi dinastie che controllano il mondo finanziario globale? E a lei piace Cruciani, giusto? E a lei che ha fatto questa domanda molto intelligente, ammira Cruciani e guarda Rete 4 che controllano il mondo. Quali sarebbero le dinastie? Allora, dimmi, fatemi parlare, perché non si parla mai delle famiglie Rothschild, Rockefeller. Perché non si sono solo personaggi toccati questi? C'è la censura per voi? Queste dinastie? Ma quale censura, di che cosa? Che ogni giorno si parla di nuovo ordine mondiale dappertutto qui. Che cazzo dici? Dov'è la censura? Dov'è? Ogni giorno se vai sull'internet è pieno di gente che parla dei governanti del mondo. Ma lui ti apprezza, guarda Rete 4, ti apprezza. Questi sono i frutti del tuo albero. Questo è frutto del tuo albero. Questo svalvolato è frutto svalvolato, sicuro. È frutto del, ma probabile, non lo so. È frutto del tuo albero. Ma perché non parlate chi è che domina il mondo secondo te? Bilderberg. Scusami Gianni, io vorrei capire una cosa, perché non pensi a trombare un po' di più di pensare a Bilderberg, se diciamo la verità. È vero che qualcuno sostiene incredibilmente, secondo un sondaggio fra 500 italiani, che si scopa di meno durante la pandemia? Cioè io la cosa che trovo assurda sono questi sondaggi. Io gli sto facendo una domanda seria. Sì. Cioè, la pandemia è il calo della, la pandemia è il calo della libido, questa è una cosa seria. L'83% degli italiani non ha più voglia di scopare, secondo un sondaggio realizzato non so perché, io non faccio parte italiani. Di quella categoria, io non faccio parte di quella categoria perché a tu mi scopri di più. Perché non parlate mai di questi personaggi? C'è la censura per i Parenzos, voi. I Parenzos, per esempio, che dominano la Confindustria. La mia chat di famiglia si chiama Parenzos, davvero? Parenzos. Sì, sì, la chat con i miei figli, con i miei nonni, eccetera, con tutti, si chiama Parenzos. Certo. Esatto. Tutta gente potente, tutta i gente Parenzos. Potente, i Parenzos. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Allora, la Zanzara. Pezzo di merda da salotto, sei un maniaco pervertito, ora vuoi trombare anche con le vecchiacce, chi ha la mania di andare con le carampane è un necrofilo, in sostanza è affetto dalla sindrome di Macron. Forse mi devo preoccupare, per la prima volta sono d'accordo con Parenzo. Chi va a trans è un disturbato e un malato. E io aggiungo anche un culattone. Stesso discorso per i trans. Sono dei disturbati e dei malati. E anche se si vestono da donna, non sono femmine. Sono solo dei ricchioni rotti in culo. Mai detto da roba, ma questo è pazzo. No, però la prima parte, delle scemenze simili. Nella prima parte sei d'accordo con il legionario. No, ma non c'è prima parte, ma il legionario. Ma il legionario ha il cervello pien de merde. Pien de merde. Ecco il frutto della pianta parenziana. Ma figurati, il frutto della pianta parenziana, allora, è l'omofobia. Dobbiamo distinguere sempre. Ti verranno a prostitute dalle prostitute. Quelli ti fanno chi va un culo a trans, così. Dai un trans. Culo così ti fanno. È diverso chi va a prostitute dalle prostitute. L'arci chi gay, va a trans, dai gay. Trans. Non capite dovrebbe l'italiano. Ma l'abbiamo capito. Dovrebbe avete un problema di italiano voi, di comprensione. State chi va, ma allora posso dire è? Una cosa? No, posso dire una cosa. Allora, ci fosse veramente in vigore la legge Zan con tutti i suoi equivoci, già stato condannato, con tutti i suoi equivoci, delle persone ti avrebbero portato già in tribunale. Ma giustamente. Non ti preoccupare, ma io reputo dei criminali chi ci va, ma io reputo criminale chi, ma scusami, chi sfrutta le prostitute o va a prostitute per me è un miserabile. Parimenti, parimenti, chi va a trans io lo considero un malato, chi va a trans, perché tu sei convinto che tutti i trans si prostituiscono, non è così, uno può avere un rapporto normale con i trans. Lascia stare, i trans hanno bisogno di avere diritti. Io sono tra quelli che ho detto che ad esempio il nome loro possono scegliere, devono poter scegliere Enzo quale nome D'Alegnano. Mettere sulla carta d'identità. Però gli uomini non ci possono andare, non se li possono scopare, che sono malati. Ma se uno si innamora, si innamora, un conto è lo sfruttamento. Se tu lo pigli in culo da un trans, sei malato, sì o no? Rispondi, se rispondi tu? A questa domanda. Se lo prendi in culo da un trans, sei malato, non è la mia league, non è la mia league. No, hai non detto è che è malato league. Chi lo prende in culo da un trans. Ma questo hai detto. Se tu, ma voglio dire, se tu sei una Enzo padre, se sei un padre di famiglia e ti piace quella cosa là, ti piace quella roba là, sei un po' un pervertito. Pronto? Ciao, no, ciao a tutti. Adesso stai cercando di sviare. Sai, no, comunque, stessa cosa detto, che ho detto. Non abbiamo detto, non abbiamo detto una cosa, che il signor Franzoni, che doveva fare la marcia su Roma, è stato fermato 2-3 volte dalla Digos a Grosseto e riportato indietro. Ma per forza. E arrestato e denunziato. Forza. E denunziato. Signor Franzoni, Franzoni. Vai Enzo, dimmi Enzo. Sì, allora, io chiamavo per difendere David da tutti questi attacchi che ha avuto in questi giorni. Non mi difenda perché rischia di fare peggio, posso dirlo, mi fa orrore. No, se no, sul discorso dei trans, cioè nel senso, tu Giuseppe, è da mesi che vuoi far passare questo messaggio che prenderla nel culo è una cosa normalissima. Beh, questo se uno vuole normale. Se uno gli piace, ma se fosse una cosa normale, allora l'ano sarebbe più adatto. Ma no, alla penetrazione, no? Non c'entra niente. Aspetta, sta stupidando. Sì, perché è una deviazione. Ma questi perché non capiscono, perché hanno un cervello piccolo. È una deviazione sessuale. Per me è una deviazione sessuale. Ma le carie denti. Ma le carie denti a pigliarlo in culo vengono oppure no? Che c'è? Questa è la teoria delle cose. Questo non lo non so, c'era sinceramente teoria medica. No, comunque questo Enzo, che voglio non dire, ho capito bene perché non dovrebbe, scusa Enzo, non ho capito bene perché non dovrebbe essere normale, perché non dovrebbe essere normale prendere nel culo da un transessuale. Tu me lo spieghi, no, un attimo, perché non dovrebbe essere normale? Perché non è normale? Spiegamelo, cioè, spiegamelo bene, perché non è normale? È una deviazione. Ma qual è la deviazione? Cos'è normale? È una deviazione. Cos'è sessuale? La normalità? Ma scusatemi, io sono eterosessuale, ok, sono sposato e tutto quanto. E allora... io non ho mai desiderato prenderlo nel culo. E vabbè, okay? Tu non hai mai desiderato, altre persone, magari altre sposato, persone fidanzato, lo desiderano, single, però io lo desiderano, non le... desiderano prenderlo nel culo. Ma che io, problema c'è? Perché dovrebbero essere dei pervertiti? Perché dei maiali? Ma perché non dei, ho detto dei che malati sono pervertiti o dei svalvolati, come dice Parenzo? No, io non ho detto che sono pervertiti, io sto dicendo che però non è una cosa naturale, cioè secondo me non lo è. Naturale? Cioè, ecco. Non è una cosa che naturale. Che vuol dire naturale? Cioè, tu è naturale. Bottardo, secondo te è una cosa naturale? Guarda, io avevo un cane ricchione, avevo un cane che inculava altri cani. Ma ragazzi, benissimo. Era naturale per lui. Per lui era naturale. Ma ok, per lui ci è naturale. Sono degli scimpanzè che si fanno l'inculerella da Milano. Andiamo sera. Avanti, Gianrico allora... da Milano, vai Gianrico. Pronto, vai. pronto. Niente, buonasera. Io volevo assolutamente provare, vabbè, adesso non lo dico più che volevo aiutare il signor Parenzo, però perché se no pensa che chissà cosa succede. Bravo, però volevo provare a fare con lei un ragionamento. Un ragionamento, perché io ci tengo che lei conservi la sua credibilità, perché poi viene sì, mandato. Però andiamo veloci, amico mio, non cerchiamo di fare. No, perché andiamo mi sembra veloci, che questa sua difficoltà a trattare di certi argomenti, poi alla fine lo screditi anche quando si esprime su faccende politiche. Ma non si anche... occupi della psicologia parenziana? Ma non so, no, che cosa vuol dire? Allora, Gianrico, chi se ne frega? Vabbè, volevo fare questo ragionamento. Allora, Parenzo, riassumendo, lo spitting non va bene, non lo? Si fa. Quella cosa di sputarsi, ma se uno, ma sia ben chiaro, per me tutte le pratiche sono legittime se uno le vuol fare, è la libertà. Se poi mi chiedi un giudizio, se io mi faccio sputare in faccia, no, francamente infatti, no, ma francamente no, vuole, ma ecco, è un problema mio, dire, non si preoccupi, allora. Lei si faccia sputare in faccia, no, se vuole vengo anch'io a sputarle in faccia, se le piace e le dà gioia, e allora... rimettere insieme i pezzi, allora dice che allora sputare non si fa sputare, no. Il pegging e non sputa nemmeno il pe, neanche quello, poi no, cosa no. C'è la pipì, niente, il pissing no niente. Chiedo okay, scusa va bene, chiedo va bene, scusa va bene. Sono strano io, no, niente di tutto questo. Però quello che mi sembra di capire è che lei voglia dare questa immagine per cui lei fondamentalmente tromba con il buco nel lenzuolo. Cioè io a questa no, cosa, caro, ma non io, ma come nessuno... Stia tranquillo, stia sereno, non no, è così. Infatti, c'è una via di mezzo tra sputare in faccia al proprio compagno o alla propria compagna, urinarle addosso, incatenarsi a letto, farsi calpestare, ci sono delle vie di mezzo, si fidi di me? No, esatto, è quello che voglio dire io. Benissimo, evviva. No, perché io non voglio assolutamente dare seguito alla teoria di Cruciani. Io non ho capito, Gianrico, tu che cosa fai di tutto questo? Di tutte queste pratiche, che cosa fai tu? Anche a lei Cruciani, perché tutto qua, quando queste cose Gianrico, che cosa fai di tutte queste cose? Non l'ho capito, che cosa fai di tutte queste pratiche? Allora, quello che voglio dire io è che... ti fai anche cagare addosso, non ho capito. Non ho capito io. Ti fai anche cagare addosso, per esempio? No, fermi. Quello che voglio dire io è che qualunque cosa nel momento in cui si fa l'amore con passione con la propria persona amata è lecito, non c'è dubbio. Confine. Tutto, okay, tutto quindi... sta cosa, bippardella per dire sta cazzata. Ciao, no, ciao, per ciao, dire, ciao, per ciao, dire, ciao. Via, quando... via, via. Vai, musica, vai. Facciamo ascoltare un po' di roba. Intanto il presidente della Regione Calabria contro Gino Strada ieri sera dalla D'Urso. Senti, c'ero pure io, mitico Spirlì, Nino Spirlì. Beh, grande, mitico. Senti, contro Gino Strada, gli vogliono imporre Gino Strada e glielo imporranno. Poi lo sai che cosa dà fastidio di Gino Strada? Un consulente, che da una parte dice, beh no, voglio sicurezze, fa finta di snobbare, poi invece dice beh ancora non mi hanno chiamato. Beh, cioè certo, vuole essere cercato alla fine, vuole essere ricercato, vuole quello essere chiamato anche lui, uno, se ti anche vuole, lui ti piace chiama. Anche lui piace, ah, no, no, anche lui vorrà sapere, parlano di lui, se mi vuoi mi chiami, la notorietà, ma quale palco, la notorietà, se vuoi mi chiami, la notorietà, no, il palco. Spirito. Ma io con tutto il rispetto per Gino Strada, però dico veramente adesso mandateci i missionari con Boniani, mandateci. Beh, adesso che c'entra, no, che paragone. Fateci adesso scavare pure tutto, i pozzi, però non si può, ma neanche... perché ci stanno trattando da quarto mondo? Quando tu tratti la Calabria come quarto mondo, allora ci mandi anche i padri missionari con Boniani, che sono dei padri missionari che vanno in giro per il mondo a portare il Vangelo. Ma posso dire che ha ragione Spirlì? Cioè, quando tu utilizzi Gino Strada, che è abituato ad andare in posti, diciamo, anche in Italia. Sì, certo, però diciamo, viene emergency, si chiama emergency, no? Cioè, emergency. Dove c'è un'emergenza. Per carità, la Calabria è un posto dove non sicuramente c'è un'emergenza. Come ho detto oggi alla 7, però, ospite di Kof di Tagadà. Appunto, non ti autociti. Non è, sì, c'è quell'altro, esatto, autocita dalla D'Urso tutti i giorni. Come ho sostenuto oggi, come ho sostenuto oggi alle 14:30 in diretta televisiva, sicuramente l'Afghanistan non è la Calabria. Flavio dalla provincia di Roma, dai. Flavio, provincia di Roma, dimmi. Flavio, eccomi. Flavio. Giuseppe, eccomi Flavio. Giuseppe, mi senti? Sì, ti sento, vai. Senti, volevo commentare quello che hai detto prima in riferimento a quella madre che emigrava e che è morta, che di cui è morta. Sì, non l'ho detto figlio. Non l'ho detto io. Hai detto una signora che Twitter, tra poco chiamiamo, che si chiama Azzurra Noemi Barbuto. Ottimo. Sì. Ma secondo me, a fare un'affermazione del genere, o non capisci veramente un cazzo, cioè non conosci nulla oltre un chilometro da casa tua, o lo fai in malafede per attirarti qualcuno, no, e diciamo i consenso mio, di qualcuno. Io non ho esultato, perché... nessuno esulta per la morte di un bambino. Ma figurati di esultare, ma come se quella fosse una scelta. Ma quella è una scelta secondo te? Ma tu sei un leccaculo! Perché anche lei va bene che scappavano i nazisti, invece gli africani che scappano dalla Libia, dove non è molto diverso, se stai in un campo, non scappava da un campo, non ci so, ma che dici, non è scappata da una stella a calci in culo, il figlio che porta in grembo sarà di qualcuno che l'ha violentata, è stata schiavizzata chissà quante volte in anni che ci ha messo a attraversare il deserto, la prima barca di merda, sarà stata messa a calci in culo perché sicuramente non possono scegliere, ma quale madre potrebbe un figlio su una barca, certo, ha ragione, è ovvio, è quella azzurra Noemi Succhia cazzi, questo è quello che volevo dire, non dica stupidaggini, volgare, lo vedi a chi hai dato ragione, a chi sta mirando ragione, che ha insultato, ma non c'entra, ci sono quelli che insultano, è affatto malissimo, è un ascoltatore che è un cretino, non ha la patente, non ha la biografia di quella donna lì che nessuno ha attaccato. Ma questo non c'entra niente la biografia della donna, non c'entra. No, non metterlo in onda perché l'ha insultata, quindi mandalo a quel paese, non rimetterlo in onda sto coglione. Dov'è Flavio? Io non reputo un coglione. Eccomi, sono qua. Sei un'emerita testa di cazzo, chiaro. Ma sei Chiamatemi Azzurra, un povero merda, continua a leccare il culo. Ma chi? Coglione, non c'è nessuna idea tua, se no una cosa del genere, una persona intelligente non la può dire. Io finora ho pensato che tu fossi, come cazzo puoi dire che quella aveva la minima scelta? Ma che ne sai tu che non ce l'aveva? Intanto il risultato è la morte. Il risultato è stata la morte del bambino. Ma cosa vuol dire? Il risultato è stata la morte del bambino. Ma cosa vuol dire? Ma secondo te c'è una madre che vuole uccidere il figlio? O mette a rischio la vita del figlio? Ma che stronzate dite? Resta lì. La Zanzara. Allora, Azzurra Noemi Barbuto, eccoci qua. Ciao, ciao Azzurra. Ciao. Ciao, eccomi. Buona serata a tutti. Allora, io ricordo il tweet che ha scatenato molte polemiche sull'internet, non solo. Adesso devi ripetere in faccia alla Barbuto cosa hai detto prima di lei. Sì, certo, lo devi ripetere. Ho dato un giudizio chiaro. Aspetta, Azzurra, scusami. Allora, leggi il tweet era questo. Citando un articolo del Corriere della Sera, ha scritto: hai perso il tuo piccolo 6 mesi perché lo hai buttato su un gommone con un centinaio e più di persone ammassate una sull'altra in autunno inoltrato con il freddo e il mare grosso. Si vede che scappava da qualcosa di grosso. Voi ditemi se c'è un qualcosa, è una stronza di un cinismo unico, è da stronzi scrivere una cosa simile. Qual è la madre che vuole mettere a rischio la vita del proprio figlio? Lei non sa nulla delle disperazione delle persone che pur di scappare farebbero qualunque cosa. Lei non sa nulla, nulla di quella disperazione, niente. Ha scritto una stronzata e ha espresso un pensiero da stronza, da vera stronza. Questo infatti è il pensiero. Stronza. Io non sono una che rincorre il consenso e l'approvazione. Ma quale consenso? Ho scritto stronzate, il pensiero, punto. Mi interessava affermare un mio pensiero che è un consenso. È una stronzata. Che è da persona cinica. Io non ho espresso un giudizio morale sulla madre, non ho detto questa madre è una bestia, un'assassina. Io ho espresso un'ovvietà. C'è una vietà, una stronzata. Ogni genitore ha una responsabilità nei confronti del figlio, certo. Perché un neonato di 6 mesi purtroppo non si può autodeterminare. Ma da cosa scappava lei magari? Non ha senso. Spinge una persona a mettersi a mettere a rischio la propria vita pur di provare a salvare il proprio figlio per migliorare le condizioni? Ecco, qual è? Che punto. Ne sa allora, lei? Persona, lei non sa un cazzo e ha scritto una stronzata. Una persona che vuole migliorare le proprie condizioni di vita non mette cosa a fa? Rischio la si vita si compra una borsa concreto, Hermes come la sua cosa fa? Si mette il rossetto di un neonato, non la mette in pericolo per salvare la vita. Arriva lei dal salotto di casa migliore. Arriva lei neonato, l'azzurra barbuta dal salotto di casa. Ma da dove sta parlando? Il caminetto, il suo caminetto è acceso? Il suo caminetto è acceso? Scusami Davide, cosa le portano stasera del Bourbon? Cosa le portano stasera? Ma la fai parlare, glielo fai spiegare per favore. Se non lo spiega, se non lo spiega, dai, se non lo spiega, forza. Si parla lui, io non devo. Io allora il mio tweet è stato chiarissimo. È chiaro che quel bambino non ha scelto di salire su quel barcone, su quel gommone precario, certo, e affrontare il mare con peraltro agitato, il tempo non favorevole, con un rischio di perdere la vita concreto, che è un rischio che la madre ovviamente ha valutato, perché ha corso quel rischio pur di provare a migliorare le condizioni di vita sue e del figlio, caro genio barbuto. L'evento morte che è intervenuto in queste situazioni di quel tipo, con appunto mare grosso, autunno inoltrato, è un evento altamente prevedibile. Prevedibile, certo. Secondo me magari scappava da una condizione ancora peggiore. Quando scappi, allora, quando scappi da una situazione come allora quella, faresti qualunque cosa, cara Barbuto. Questa signora scappava dal Gambia, perché proviene dal Gambia. Allora, Gambia è un paese che lei conosce bene, il Gambia. Aspetta. Dove, no, basta collegarsi sul sito della Farnesina, vedere la Gambia, è un paese tranquillo, è un bel paese. La Farnesina fornisce da sempre i consigli di viaggio e quindi appunto quali sono le zone consigli di viaggio, certo. In Gambia purtroppo ci sono delle situazioni di conflitto armato in alcune aree che non si parla di guerra, si tratta di conflitto armato. No. Quindi una persona che vuole scappare da lì, giustamente, e mettere anche in salvo il figlio, si rifugia nello stato più vicino. Esatto, no? Quale sarebbe lo stato mare, più vicino? Vediamo. Prima di affrontare il Senegal, il mare, dove va? Esporre il neonato purtroppo in pericolo di morte, rischio morte, poi morte che è avvenuta. Ma non ha torto, ragazzi, non ha torto. Non ha torto. Ma cosa vuol dire andare in Marocco? Ma che ne sa lei di quelle persone che ha incontrato? Che ne sa lei di chi ha incontrato sta madre? La signora poteva. Ma è pure. pure lei che cosa ne sa? La signora poteva risultare. No, ma infatti in Marocco, io rispetto il dolore Algeria, e capisco le persone che vengono qui a differenza delle stronzate non sue. Paesi, non sono paesi in guerra questi. No, lo non sono in guerra. Ricordare. Le andiamo a visitare con Hermes. Allora, andiamo a visitarla mettendoci il rossetto o col tacchiaspillo. Allora, andiamo. Guarda, andiamo a visitarla, però, dai. Aspetto, aspetta. Facciamo un reportage per libero. Allora, allora. Scusami, Azzurra. Non mi consentite di parlare, non sono qui per urlare e perdere la voce. Allora, scusami, Azzurra, mi dici un attimo le minacce che ti hanno. Perché anche guarda, questo è un tema. Guarda, tirando le somme, arriviamo alla conclusione che il pensiero errato non è il mio, comunque, è magari quello di Parenzo, comunque, quello di chi crede che la madre di questo piccolo indifeso che è morto, ricordiamolo, sia esente da responsabilità, quando non è così, perché ogni genitore ha responsabilità nei confronti del suo bambino. Ma quello certo. Allora, voglio capire le minacce che ti sono arrivate. Le minacce che ti sono arrivate, a parte le critiche. Scusi, i Veneti non andavano in Germania? La cosa più buffa e sorprendente è che io sono stata accusata di essere una persona disumana da coloro che mi hanno augurato la morte. Stupidaggine. Mi hanno augurato anche di diventare madre e perdere il mio neonato. Ma per carità di Dio. Ma quelli sono degli imbecilli. Che vorrebbero dettare ma a quella che morale. C'entra, non perdiamo il vorrebbero tema. Imprimermi l'etica. Ma quelli sono degli imbecilli, quelle che l'hanno minacciata, sono degli imbecilli. Io ho detto che lei ha scritto una stronzata e rivendica. Una stronzata che rivendico con orgoglio. E allora scrivo mille volte. E allora lei ha scritto una cosa tipica da stronzetta. Da tipica stronzetta, guarda. A mettere un po' a tassare. Dopodiché chi la minaccia è un cretino, è un violento. No, che no, deve stare a tassare come un'oca, non consente purtroppo di interloquire. Beh, ti ha dato anche della stronza, oltre che di ciò. Ma oltre io lo ripeto, di... io sto ha ragione, mi dispiace, cioè, qua non lo posso contraddire. Io sono una stronza, però con dei principi. Vuole affermare quei principi che poi sono dei principi inconfutabili, il fatto che un genitore abbia una responsabilità nei confronti del figlio e l'altro neonato lo carica sul barbone ben consapevole, c'è Azzurra una cosa cosciente. Mi scusi, abbia pazienza amica giornalista, io sono Alberto Gottardo, le faccio una domanda precisa. Sì. Lei ha dei figli? No, non ho dei figli, ma questo cosa significa? Bene, lei l'augurio che le faccio, Azzurra Noemi Barbuto, no, non diventi così isterica subito, non diventi isterica, non diventi isterica. No, no, mi lascia concludere, non faccia come la Fallaci, che non ne è all'altezza. Io le sto facendo l'augurio, Le sto facendo un augurio di non finire come la Fallaci. Le sto augurando di non finire come la Fallaci. Diventi madre. Diventi madre. Le si aprirà un mondo. Le si aprirà un mondo. Io non penso che una donna io le sto per facendo un augurio. Ed essere donna ragazzi, per forza mi sembra madre. Mi sembra senti l'isteria. Senti l'isteria. Mi sembra che le accuse che sono state fatte scusami Azzurra. Azzurra, scusami, le accuse che sono state fatte assurde ad Azzurra Noemi Barbuto per quello che ha scritto. Ma io infatti le ho augurato di diventare madre. Sono ridicolo. La prima accusa, quella l'ultima che abbiamo sentito è che una che siccome non è madre non può giudicare. Ti si apre un mondo. Seconda cosa, Parenzo che dice non è vergognosa. Non sai da dove scappano. Cosa cazzo c'è? No, non sai qual è la sofferenza di una madre che deve decidere che per salvare la vita al proprio figlio ma non so cosa vuol dire essere madre. Mette in quella condizione. Dimmi. Mi si dice che io sono insensibile, non sono madre, non sono madre. O la fate finire o no? È stato proprio il mio istinto materno, la mia estrema sensibilità. Sei istinto un cazzo, non sei madre, non lo sai. Non ti puoi immedesimare, non lo sei. Non doveva essere su quello. Non sai cosa vuol dire avere un bambino di 6 mesi. Certo, la madre non doveva esporlo a rischio di morte. giusto, giusto, giusto, fanne uno prima. Ma che c'entra, dai. No, però, ciao, poi c'è un altro ragazzi. Tema. Scusa, grazie Azzurra. Ma fanne uno prima. Ne riparliamo dopo. Sono madri, ma lei veramente. Sì, la stronza, senti la stronza. Senti la stronza. Sì, l'autodefinita stronza. Hai detto un sacco di cazzate, Gottardo. Sì, sì, sì, sì, però intanto ho dei figli. Ciao, grazie, ciao. La Zanzara. Guarda, io onestamente il sasso dei ideali non so nemmeno se voglio continuarlo. Ho letto i primi tre capitoli e fanno uno più schifo dell'altro. Però vabbè, infatti quello poi, cioè, adesso lo leggo e poi te lo regalo a te, perché non lo voglio nemmeno avere nella mia libreria, onestamente. Le porcate che ci sono scritte dentro sono sicura che potranno essere di tuo gradimento. E onestamente ho solo una parola per tutta la gente che fa quella roba, ed è malati mentali, psicopatici, questo. Allora ragazzi, come sapete il direttore di Radio Maria, padre Fanzaga, ha detto che il Covid è un progetto criminale delle elite mondiali con la complicità degli stati. Pazzesco. Io sentirei alcune cose che non abbiamo fatto sentire fino adesso e che nessuno tocchi Radio Maria. No, beh, è molto grave che lo dica un capo spirituale, capito? Ma non è un capo qualcuno spirituale, è il direttore di una radio. Beh, no, qualcuno no, no potrebbe, però, ma qual è il problema? Insomma, viva la libertà! Viva la libertà! Come, libertà. Da come svariona, libertà! Da come svariona sembra Radio Marijuana più che Radio Maria. Sì, questo pure è vero, questo è buono. Secondo questo, me sfuma qualcosa. Questo è buono, questo è buono, non è questo male. Non credo. Allora ragazzi, andiamo a sarebbero sentire questo, Don Fanzaga. Andiamo a sentire questo. Il progetto è un progetto delle elite mondiali, un progetto delle elite mondiali. Io ripeto, Don Fanzaga sbaglierà, perché sbaglierà, non lo so, probabilmente io non ci credo molto a queste cose. No, ma io non molto ci credo al complotto delle elite mondiali, non ci credo. Devo dire che non ci credo, però chi dice oggi col ditino alzato è pericoloso. Ma certo, perché sembra una persona normale, se lo dice Vanna Marchi uno non ci crede. È un'opinione. Viva, ma sono opinioni Maria, che possono fare dei danni. Di Radio Maria. Io ho combattuto sono Radio Maria. Sono opinioni che fanno danni, opinioni che fanno ma danni. Ma voglio che rimanga, non fa nessun danno. Come non nessuno? Fa nessun danno. C'è gente Don che Fanzaga. Ci crede, c'è non gente che ci crede. Vabbè, pazienza. E allora, come vabbè? Che vuoi eliminare come quelli il dissenso? Che si, come vuoi quelli che si curano. No, ma va detto vuoi che è una che dice delle stronzate. Ti piacciono i gulag. Ma figuriamoci. Ti piacciono i gulag, ma figuriamoci a me. Ti piacciono i gulag, ti piace figuraci. Il pensiero unico. Ma quale pensiero unico? Ma figuriamoci. Forza, Don Fanzaga. Non mi piacciono le cazzate. Quindi per me questa epidemia è un progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali. Con complicità magari dice, forse di qualche stato, non lo so, è un progetto portato davanti alle elite mondiali per costruire il mondo nuovo senza Dio, Meluzzi, per fare la cupola a questa cattedrale che da anni stanno costruendo un mondo nuovo senza Dio. È il passaggio fondamentale quello di mettere in ginocchio l'umanità spogliandola di tutto in pratica, e quindi senza più risorse neanche economiche, senza più lavoro, mettendola in balia del potere politico e mass mediatico. Eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco. Posso dirti una cosa? È talmente confuso che non si capisce una sega. Tra l'altro, Radio Marijuana non è male. Radio Maria, Radio Maria. Altro Maria. Che incenso, Don Fanzaga. Quello che usi non è incenso. I tuoi chirichieri ti stanno facendo uno scherzo. Posso dirti una cosa, tra l'altro, che secondo me sbaglia, perché in questo periodo di crisi, di casino, di gente che sta dentro casa, la spiritualità, adesso dico una cosa forte magari, in realtà si accentua il bisogno di credere in qualcosa di sovrannaturale, dunque Dio, non è che cioè, no, io credo che sia così, io sono ateo, non me ne frega un cazzo, essere, certo. Ma credo che in questo periodo si accentui il bisogno di credere in qualcosa, no? Chi ci può salvare da questa cosa in cui non si sa un cazzo? Perché ogni giorno veniamo sommersi da mille notizie, per esempio quelle sui vaccini, ogni giorno c'è un'azienda che si avvicina e proclama, ah, io al 90, io al 94%, efficace al 90, al 94%. Beh, questo tutte... devono portare... Tutte no, beh, devono portare speculazioni ma di no, borsa speculazioni in devono momento. Però portare in questo momento i risultati. È tutta roba finanziaria e di borsa, tutta roba finanziaria però di borsa. Però vedi, qualcuno... dire così mette in luce, come no, dire, un aspetto del sistema. Non sto dicendo che non sarà efficace. In realtà sono delle non grandi sto dicendo aziende, che non sarà efficace. Sono delle grandi aziende. Sto dicendo che questi annunci di oggi che dicono 90-94 quello... sono tutti fatti per fare dei quattrini. fare dei quattrini in borsa, diciamo la verità. Questa ma è quello certo, ma non cose. È la comunità di Sant'Egidio, le farmaceutiche. Ci sono brevetti, c'è scienza, c'è gente che ha studiato, c'è ricerca scientifica. Ancora c'è gente Fanzaga, pagata, fatemi sentire. Pagata per trovare le soluzioni. Un mondo dove saremo tutti zombie, questa è una puttanata. Però ripeto, chi oggi attacca sprombattuto Radio Maria si dovrebbe vergognare. Ma non è Vanna Marchi, però è una radio ascoltata da milioni di persone. E allora? Danni. Ma che fa danni? Perché non se uno va a dire, se uno va ma in giro a dire danni? Di curarsi bevendo cazzo. L'acqua, bevendo l'acqua crea dei danni. Ma non danni. Dice questo. Beh, non no, se, come, uno, come se uno va in giro a dire che i trans sono tutti prostitute, esatto. O che gli uomini che vanno con i trans sono degli stronzi malati, probabilmente fa danni. Caro mio, uguale. Vai, caro mio. Zaga, vai. Quel mondo nuovo che sarebbe il mondo di Satana, insomma, perché il mondo nuovo, la creazione, cioè il mondo di Satana, come te, cosa volete che sia il mondo nuovo, no? Dove noi saremmo tutti dei zombie e in balia di queste elite perfette che sarebbero quelli che rappresentano le elite. Il Dio, le elite. Rappresentano. Questo è il progetto, cari amici, non è una cosa che ha fatto bene. Le elite mondiali lavorano con il diavolo. Io lo trovo straordinario, ragazzi, un predicatore eccezionale. Avessimo noi qui a Radio 24. Ma è un grande spot per io il diavolo. Io lo assumerei a Radio 24. Sta facendo pubblicità al demone. Davide, io lo assumerei a Radio 24. Fossi l'editore di Radio 24, io fossi motivo? Un editore di una radio. Ma perché deve prendere tutta la gente strappalata? No, ragazzi, questo va assunto subito. Portato in questo, portato nel tempio di Confindustria. Portato qui, nell'unica cosa che rende quattrini a Confindustria in questo momento. Cioè, portato qui a Radio 24. Portato qui assolutamente. È caduta la telecamera. Vai. Andatemi questo paio. Come c'è chi lavora per la Madonna, c'è anche chi lavora per il diavolo. Questo è un progetto che ormai sono tutti d'accordo, le elite sì. mondiali. Ma perché non vogliamo noi questo paio? Ma anche la donna Bonomi, la punta sulla ciliegina per vincere la grande battaglia. Tamburini, prendetelo. Il messaggio della Madonna sarebbero inspiegabili senza leggere la situazione politica, economica, finanziaria del momento attuale. Perché non prendiamo anche la Vanna Marchi e la donna barbuta, ad esempio? Bellissimo. No, ragazzi, questi facciamo vanno fare questo qua, la trasmissione di Barisoni. Perché non la conduce Vanna due Marchi? Ore. Perché? Don Livio Fanzaga Show. Io lo prenderei show. Subito. Show. Barisoni, dove sei? Chi cazzo cerchi? C'hai uno pronto, dagli 50.000 euro l'anno. Questo qua viene subito. 50.000 euro Don Livio Fanzaga. A uno che Don delira. Livio Fanzaga, Radio 24. A uno che delira. Sono gay. Senti Biden, chiamatemi l'ospite intanto che vi sto facendo segnali da 4 ore da qui, da questa stanza, dai, forza, Biden. Che povero Biden, che non, per carità, non so cosa sia, mi sembra un poveraccio, non un anticristo, però, però ha sposato, diciamo così, il programma dell'anticristo, e cioè l'aborto non omese. I matrimoni omosessuali e la concepimento di provetta sono i tre segni, secondo Benedetto XVI, della presenza dell'anticristo. Quindi, come si fa a dire una fregnaccia simile? Allora, l'aborto ragazzi, al nono mese non è vero. Non è vero, questa è una fregnaccia. Nessuno vuole è una fake news pazzesca. Questa è una fake news, ma anche tu dici un sacco di fake news. Non dire cazzo, no, anche tu dici un sacco di fake no, news. Ma che c'è? Se le allora, dico, ragazzi, dico magari ho sbagliato e lo dico. Una persona che è molto incazzata con Parenzo, che è un transessuale, una mia amica, una delle più belle transessuali che ho mai conosciuto in vita mia, molto bella, che si chiama Sheride Rossi, che saluto, buonasera. Ciao Giuseppe, mi senti? Sì, ti sento, Sherry, cara Sherry, ti sento, sì. Chiamami cortesemente con il mio nome che è Clizia, per sapere. Il tuo nome qual è? Qual è, scusa, il tuo nome? Ah, Clizia, Crizia, com'è? Dai, sei il solito. Ma no, ma non me lo ricordo, sul serio. Sherry è il tuo nome d'arte, d'accordo, ma come ti chiami tu normalmente? Clizia, C-L-I. Clizia, va bene, Clizia. Zafraia, esatto. Comunque, va bene, allora, sì, vabbè, è uguale, dai, non fa differenza, su, non ci so, non stiamo Clizia, su questo. Vabbè, cose la signora qua. Clizia, perfetto, benissimo. Clizia, Clizia. Allora, mi rivolgo a David, che io sì, ho sempre stimato, ho sempre concordato anche contro il mio amico Crociani con le sue idee, e mi meraviglio seriamente che un uomo della sua cultura, del suo spessore. Beh, forse lei non ha capito che cosa ho detto, aspetta, però, cara Clizia. Lo sa benissimo cosa hai detto. Lo sa benissimo. Non è una critica ai transessuali, alle trans anche. assolutamente. Ma chi va con i trans? C'è il diritto ad essere trans, c'è il diritto a grazie a cazzo, dai, ci mancherebbe altro. Posso finire cortesemente? Vai, dimmi. Poco fa Parenzo diceva che quelli di Radio Maria mandano un messaggio sbagliato e che tanta gente ignorante poi finisce per crederci. Sì, io dico la stessa cosa a lui, perché un uomo progressista di sinistra nel 2020 non può far passare il messaggio che un uomo etero è malato o ha delle devianze se è attratto da una transessuale. Punto primo, perché moltissime transessuali, me compresa, sono molto più femminili di tante donne biologiche. Ma questo è un altro tema, questo non c'entra. Giusto, secondo, lei in primis, come dire, cadrebbe subito ai miei piedi se mi vedesse per strada. Ma io adesso, senza nulla togliere a lei, signora, io veramente ho altri gusti, ma non toglie nulla a lei. Stai dicendo che di fronte a te anche la normale, come dire, resistenza di Parenzo di fronte a gustare un uomo transessuale potrebbe cadere davanti a te. Guardi, quelli come Parenzo sono i primi che invece bravano. Mi dispiace deluderla, però adesso io non vorrei deluderla, cara Sheri, mi sta molto simpatica lei, io non bramo in alcun modo, ma non... che devo fare? Mi dispiace. Dopo mi faccio passare il suo numero da Giuseppe, ma per carità, e le mando qualche foto. Poi ma signora, no, non serve, grazie, questo, grazie. Le faccio solo una la signora punto. Posso dire ragazzi, per chi sta seguendo in questo momento, la signora Sheri De Rossi Clizio, come vuole essere Sheri chiamata De Rossi, è una signorina che fa la donna di spettacolo, lavora in alcuni locali a Milano. Bellissimo. Ed è stata ospite di questa trasmissione diverse volte, antisalviniana di ferro, donna di sinistra, sì. renziana, e però ha anche una dotazione notevole di ma quanto 17-18 centimetri. Beh, non è ed è assolutamente femminile come tipologia, capito, ma e per non questo è... amata da molti uomini. E Parenzo, anche tu apprezzeresti questa dotazione. It's not my league, chiedo scusa, non è il mio campionato. Io vorrei ricordare a Parenzo che moltissimi uomini illustri di questi tempi, e non solo, però... tra cui molti intellettuali, come il suo collega Marrazzo, ma anche il grande Lapo Elkan, ma anche il famosissimo Cristiano Ronaldo, Eddie Murphy, e via dicendo. No, ci sono tantissime testimonianze. Ma io non faccio Grant. Ricordo che evidentemente se un uomo che può permettersi la qualunque donna di questa terra finisce poi per prediligere un determinato, come dire... la donna di Casso, cioè, sì, tu stai dicendo che il trans, che il futuro è la donna di Casso, come dice Gottardo, cioè, il futuro del sesso è trans. Parenzo, arrenditi, il futuro del sesso appartiene io ai transessuali. Dire, mi dispiace, come dire, per te, è come dire il futuro, e tu hai insultato ma il futuro può essere anche persone, ma non ho insultato nessuno, chiamandoli malati e pervertiti. Chi va ho insultato, come ho insultato chi va a prostitute, come ho insultato, ho definito chi va a prostitute come un miserabile perché cosa. Sfrutta queste donne. Scusami, tutto qua. Perché l'uomo si sente più appagato ad andare con te? Perché l'uomo si sente più appagato ad andare con te? Spiegami. Alcuni uomini. Vorrei ricordare che non tutte le trans sono delle prostitute. Questo certo. A mandare dei messaggi sbagliati. Punto secondo, l'uomo si sente molto più, come dire, coinvolto da una ragazza trans, e infatti sempre più uomini le cercano e non hanno problemi a farci vedere anche in pubblico, perché sessualmente sono molto, almeno quasi sempre, più come dire, coinvolgenti e spinte di una donna biologica, e da un punto di vista umano e cerebrale sono anche più vicine magari alla mentalità di un uomo, lo sanno capire meglio. Io sono sicura che farei cambiare conoscono idea la regola del fuorigioco già solo con una scena. ce la organizzate a mia parte. Scusa, ma la cena per conoscerla, sicuramente chiacchierare con lei mi fa piacere. Mi fai una tua stima particolare, perché è febbraio. No, voglio dire che una cena con la signora va benissimo. Io anzi sono curioso di conoscerla. Un conto è la persona intelligente che è. Un conto è se poi uno deve avere una relazione. Personalmente, it's not my league, ma non c'è nulla di male. Non solo hai detto che è malato chi ci va. È malato chi ci va. Però io voglio dire una cosa. Io voglio dire una cosa, Chérie. Scusate, fatemi parlare. Allora, Chérie, fammi una tua percentuale. Cioè, Efebal, che tu non ami moltissimo, che è una prostituta transessuale, ci dice che l'80%, forse anche di più, delle persone che vanno con lei sono tutti passivi. Allora, mi fai una tua percentuale degli uomini che tu frequenti? Tu sei sessualmente molto, molto foco, cioè diciamo la verità, tu a te il sesso piace tantissimo. Diciamo che non è un crimine. Ho avuto molti uomini e ti posso garantire che partono tutti quasi esclusivamente come uomini attivi e poi la curiosità viene a molti. Per questo penso. No, ma dico la percentuale qual è? La percentuale qual è? Cioè, ti è capitato uno che non l'ha preso nel culo delle persone che hai frequentato? Sì. Beh, certo, che discorsi, certo. Ma la percentuale qual è? Qual è la percentuale di passivi che tu frequenti rispetto agli attivi e rispetto a quelli che sono solo attivi? Diciamo 50 e 50. Fermi tutti, fermi là, resta lì, resta quindi lì. C'è una grande percentuale, sì. Resta lì. La zanzara. Mamma mia, quanto darei per poter fare un CPC con Esther da Milano. La zanzara. Cari fratelli e sorelle, in questo momento di grande preoccupazione per tutti noi, rivolgiamo a questo virus le nostre preghiere quotidiane. E allora, tutti insieme, alle ore 12 di ogni giorno, recitiamo 3 vaffanculo, 5 e kit sono a stramort e 10 ciarutto cazzo. Amen. Allora ragazzi, qui alla Zanzara si discute non del virus ogni giorno con tutte queste notizie, vaccini, dati, eccetera, chi se ne frega. Si sta discutendo del fatto che Parenzo nei giorni scorsi ha detto che chi va a transessuali, cosa che fanno molti italiani, è sostanzialmente un pervertito, un malato, un disturbato, uno svalvolato. E giustamente il mondo transessuale, l'intero, ma il mondo non si deve, ma loro non devono arrabbiarsi, loro sarebbe come far arrabbiare le prostitute perché io ho detto che chi va a prostitute è un miserabile. No, perché ma, le prostitute si dovrebbero arrabbiare? Una volta non c'è motivo di far arrabbiare. Ancora una volta stai accostando. No, ma a parte che non tutte le trans sono prostitute, non tutte le trans appunto sono prostitute, appunto, quindi questo appunto è il primo dato di fatto appunto evidente, appunto, perché appunto sennò e quindi e nessuno l'ha sostenuto, però e non dovere, non l'ho mai detto questo. Chérie De Rossi è una persona simpatica, è una showgirl meravigliosa e viva, prostituta, e dice che saresti il primo a volerla scopare. Ma per carità, ma questo mi spiace toglierle questo mi spiace toglierle saresti questo il primo, ma mi dispiace toglierle questo sapore, però non è così purtroppo, ma mi spiace per mi spiace insomma, non poterla accontentare. Mai questo dire mai, Davide. Beh, cara, prima incontriamoci. Ma e non poi ne parliamo, cara, perché saresti super rispetto dalla mia cultura e poi anche da qualcos'altro. Scusami, ma la cultura è sicuramente molto simpatica. Hai avuto relazioni anche lunghe con uomini tu? Con uomini, certo, sei stata anche fidanzata? Ma sì, pubblicamente ovviamente. Ci sono anche uomini intelligenti e civili che ormai questi concetti retrogradi medievali non ne hanno più. Come quelli di Parenzo non li hanno. Di Parenzo, che ma poi è così, fa il progressista così, fa il volemoce bene, peace and love, e poi fa questi discorsi discriminanti perché in qualche giusto modo incute anche vergogna in tanti uomini che magari vorrebbero palesare queste relazioni e poi hanno paura perché c'è gente come lui che gli dà dei malati o dei deviati. Brava, vedi che discorso perfetto che ha fatto. Ti ha messo a posto, ti ha messo a posto. Ma mi dispiace se lei si è offesa, mi dispiace, ma non era riferito a me. Ma non è offesa lei. Io dico semplicemente che quelli che hai offeso tanti uomini, che gli uomini, sai, gli uomini, sai, quelli sono dei maiali, nel senso che quelli che vanno anche a prostitute e pagano le donne. Ma che c'entra le prostitute con i transessuali? Quindi offendere quelli che vanno lì, e sai, quello a parte che andare a prostitute non è affatto una cosa malvagia. Beh, Laura sì. Da Milano, io voglio sentire Laura perché c'è scritto anche le donne sono attratte dai trans. Laura, che dici? Vabbè, è vero, è molto vero, perché il trans ha una carica erotica notevole, perché coniuga l'aspetto maschile e l'aspetto femminile. Ma tu ci sei mai andata? No, io non ci sono mai andata, ne sono stata sempre molto attratta, anche se dire per una donna una cosa del genere non è facilissimo. Ma scusa, perché non hai provato? Scusa, ormai è facilissimo, cioè, nel senso, puoi anche prima puoi pagare, perché... secondo ci sono un sacco di trans che... No, non lo so. Sherry, per esempio, non è attratta dalle donne, cosa abbastanza normale, diciamo, no, in teoria, però non è affatto attratta dalle donne. Non sei mai andata con delle donne, Sherry, scusami. Io mai, ma ci sono tante ragazze anche che conosco che sono attratte da donne o che hanno addirittura relazioni stabili, ufficiali con donne. Quindi è lo stesso discorso di prima. Ci sono anche persone che guardano cosa ha in mezzo alle gambe una persona. Che cosa ti attrae del trans? Che cosa ti attrae del trans, Laura? Il trans mi attrae questo aspetto ambiguo. Il cazzo, diciamo, innanzitutto. Beh, insomma, perché no, è chiaro, no? Perché anche quello, il trans, perciò. Ma è l'aspetto anche della femminilità che di solito nell'uomo non emerge. Ma è quel terzo sesso e magari ti attrae anche un trans con il pisello anche abbastanza grosso, perché altrimenti che ce fai col trans col pisello piccolo, diciamo la verità, cioè, vabbè, adesso non trans, è una questione, questione di dimensioni del trans, l'immagine del trans col pisello insomma di una certa portata, di un certo calibro, è sicuramente un'immagine diversa rispetto a un trans col pisello, col pisellino impotente, mi vuoi far passare questa cosa, ti dico di sì, ma non è proprio quello che volevo dire, però voglio dire anche le donne, volevo ribadire questo, insomma, no? E che e ci sono una serie di bacchettoni e persone un po' giudicanti nel senti, mondo. Volevo chiedere una cosa a Sherry, ma recentemente durante una trasmissione chiamasi Grande Fratello VIP c'è stato un fatto che ti ha colpito, o sbaglio? Assolutamente, io volevo fare questo appunto perché sono indignata anche con Signorini, che fa tanto il paladino della comunità LGBT, e poi per fare un po' di stir invita, anzi fa entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente una grandissima cafona, alias Selvaggia qualcosa. Selvaggia Roma, mi sembra. Selvaggia Roma, nota alle cronache. No, perché sai qua. Non solo per, come dire, affermazioni razziste, ma anche transfobiche e omofobe. E che ha detto di strano? Che ha detto? Ha detto che siccome un suo ex è stato con una ragazza transessuale, oltretutto operata, lei ha detto che lo disconosce perché per lei un uomo, lo stesso discorso di Parenzo, un uomo che va con una ragazza trans è malato e a lei fa schifo. Io direi che a me fa schifo lei e tutte le persone. Senti, ma in una Italia governata dalla Meloni, no? Che è una in ascesa nel centrodestra, tu che sei molto di sinistra, anti-salvinale, eccetera, e tu che cosa penseresti di fare in un'Italia governata da Giorgia Meloni? Non arriveremo mai a questo livello di bassezza. Cioè, ti fa schifo, la Meloni? Ma che mica è incivile la Meloni, dai, non diciamo la cazzate, Meloni dai. È vergognosa, e con lei torneremo, penso, peggio del ventennio fascista. Quindi assolutamente, ma dai, un balzo indietro di un secolo. Cioè, sarebbe da scappare dall'Italia, per tutti i trans gay dovrebbero scappare dall'Italia, non ho capito. Più o meno, non a caso è contraria, guarda caso, alla legge Zan. Ma quello pure io, che c'entra, ma quello pure io. Anche in Senato. Ciao, ciao amica mia, ti saluto, ti abbraccio, ti abbraccio. Giuseppe, ciao, ti convertirò, vabbè, ciao. La Zanzara. Una mia amica mi ha appena confessato che lei adora fare il CPC. Cazzo, sono un'amica però. Porca puttana, aiutatemi. I love my radio. La risposta napoletana al CPC si chiama CFP, culo e fessa pennellessa, con la lingua larga come un cane San Bernardo, slapped. Mi hanno fermato e mi hanno fatto il fermo di polizia, mi hanno portato 3 ore in caserma, ho letto i miei diritti e poi dopo alla fine ci hanno fatto le lezioni di domicilio, hanno chiamato il magistrato e ci hanno fatto riuscire e ci hanno riaccompagnato e scortato, ora ci stanno portando verso casa perché non possiamo assolutamente andare avanti in quanto abbiamo, a parte io avevo già il DASPO, ma comunque abbiamo un doppio reato del 6,50 e quindi poi la terza volta ci arrestano. Signor Franzoni, che doveva fare la marcia su Roma, subito beccato dalla Digos perché il foglio di via non può andare a Roma. Certo, rivoluzionario fallito. Fra poco lo chiamiamo, però prima Giorgio da Ragusa, sì, assolutamente. Ma per carità, Giorgio da Ragusa. Ma per carità. Vai. Giorgio. Ciao ragazzi. Forza, forza. Ciao ragazzi, voglio bene. Sì, ma lo sapete che l'ex magistrato Ingroia ha detto, credo, esatto, a Klaus Davi, ha detto che l'Andrangheta potrebbe aver avuto un ruolo nella, esatto, creazione del virus. Sì, ragazzi. questo perché immagino dica Ingroia, perché siccome l'Andrangheta approfitta del fallimento di molti, sì, sì, di molte attività commerciali, un altro, cioè, buono, un altro l'Andrangheta, buono. Ora dimmi perché Ingroia va bene, ma chi Ingroia ha detto che va bene? E quello, ma, di Radio Maria no, ma, dai, che, Don Livio, ma, no. Ma chi ha mai detto che va bene? Ma se l'ho scritto nella chat, no, la radio 24 Bifolco, anche lui, pure dai, lui distruggi la credibilità della radio, certo, distruggi tutto. Giorgio da Ragusa, il mio palinsesto Don Livio Fanzaga, sicuramente un grande show Don Livio Fanzaga, beh, stupendo, meraviglioso. Don Livio Fanzaga, poi Oscar Giannino Show, vabbè, e Don Livio Fanzaga. Vabbè, però se metti sullo stesso piano Oscar Giannino e Don Livio Fanzaga, non fai un favore a Oscar Giannino, te lo posso dire? E lo chiami pure Giorgio, amico. Dimmi. Sarebbe come dire la donna barbuta e Oscar Giannino, no? La donna barbuta e la donna barbuta, Oscar Giannino e Oscar barbuto. Giannino. Cioè, la barbuto dici di prima. Esatto. Giorgio, avanti. Dimmi, dai Giorgio. Azzurra barbuto, azzurra barbuto. Ma va, Noemi, culo, va. Dimmi. Azzurra, Noemi barbuto, immigrati partono. Dimmi, ce l'avete intanto il messaggio che ha mandato Bizzarri contro Parenzo su questa cosa dei trans, ce l'avete? Dai, dimmi. Ma Bizzarri, Giorgio, dimmi, adesso, dai, che non sento un cazzo, dimmi. Non si sente un cazzo, Roberto. Niente, da Venezia, si sente, ragazzi, niente, non sente più niente oggi. Chiudi tutto, arrivederci. Finito. Grazie, Vigino Strada. Chi sei? Vigino Strada è praticamente il fondatore. No, ragazzi, Roberto non si sente. Agatino via, da Catania. Via, andiamo via, avanti così, dai. Agatino, via, via, via, via, tutti. Ragazzi, però mi mettete bene queste telefonate. Forza, dai, Agatino, forza. Eccomi Giuseppe, buonasera a tutti. Dai, forza, dimmi. Allora, dimmi. Io solo per par condicio, io sono cattolico cristiano, va bene. Sì, padre Livio ha detto, chi se ne frega. Padre Livio ha detto quello che ha detto, però io inviterei voi tutti, che siete uomini di grande coraggio, arditi, Parenzo, no, e non l'altro, siamo né l'altro uomini di coraggio né arditi, né anzi gli arditi ci fanno pure schifo, sì, gli arditi. Fanno, comunque, va bene, allora uomini di coraggio. Voi dovreste fare le stesse simpatiche battute, la stessa prosopopea, la stessa vile accozzaglia di insulti a Padre Livio, però lo dovreste fare per una radio ebraica e per una radio islamica. Che sarebbe successo? Dici, ma che cazzo dici? A parte che nelle radio musulmane, se ci sono i predicatori, ne dicono di tutti i colori, spesso gli imam, eccetera, ma andiamo in onda però, e gli facciamo un culo così. Quando qualche rabbino sbalvola, lo mettiamo in onda anche quello. Ma che diceva? Non è mica un problema quello, chi se ne frega. Ma io lo difendo a spada tratta, non hai capito un cazzo, ma non per quello che dice che sono stronzate, lo difendo nella sua libertà di poterlo dire. Bravissimo Giuseppe, sei un grande. Ciao. Tutti questi che ti applaudono però sono degli svalvolati, si può dire? Sì. Chiamiamo, ragazzi, state zitti, chiamiamo Franzoni, vai. Franzoni. Du kommst hier nicht mehr raus. Pronto? Pronto? Pronto? Dimmi. comunicare. Ma cosa hai fatto? Alla fine sta marcia su Roma è fallita, l'hanno fermata a Grosseto, che è successo? Allora, mi hanno fermato 4 volte, mi hanno messo dietro una pattuglia della Digos, poi mi hanno portato per un fermo di polizia a Grosseto, mi hanno tenuto 5 ore e poi mi hanno rilasciato. Ma come hai rilasciato? Perché lo sanno perfettamente che i DPCM sono illegali, che violano la Costituzione, perché lo stato di emergenza è possibile solo in caso di guerra. Invece qui andiamo avanti. Ma tu hai il foglio di via, non potevi andare a Roma, non potevi non entrare, importa, a Roma. Ci sarei arrivato lo stesso, poi mi arrestavo, non importa. Bisogna manifestare il dissenso. Vedi, in queste ore in Danimarca la popolazione è nelle piazze a protestare contro la vaccinazione obbligatoria, perché il governo sta varando una legge per obbligare. La vaccinazione obbligatoria? Sì, cosa in Danimarca. E stanno scendendo in piazza perché non vogliono vaccinarsi. Il vaccino ma è mortale, dicono che sei domiciliare. Mi dicono, ma che ne sai che è mortale? Il prodotto della Pfizer che è scalata da Bill Gates, cioè la proprietà della Pfizer, della società che ha prodotto il vaccino, è di Bill Gates, cioè colui che ma ha che ne sai? Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero. Ma chi te l'ha detto? Sì, non è vero. Sì, che... tranquillo, Bill Gates è socio al 30% della Pfizer, e la Pfizer ma è di proprietà della Glaxo, suoi, e la Glaxo è di proprietà della Glaxo, e la Glaxo è quella che finanzia indirettamente il governo italiano per vaccinare obbligatoriamente la gente. Infatti, come finanzia il governo italiano? Ma cosa dici? Ma meno male che c'è la Glaxo che fa vaccini, ma meno male che vaccina le teste di cazzo come te. Ignorante, la Pfizer è di proprietà della Glaxo, che è un gigante della farmaceutica. È ottimo, meno male, meno male che ci sono le farmaceutiche, meno male. Le ma che vicino ai camerali? Viva la scienza, che stanno le teste di cazzo come te. I giornalisti, voi siete tutti venduti al sistema. Comunque, io propongo questo. Quando il mondo della menzogna sul questa COVID gentaglia qua creeranno le teste anche di voi giornalisti che avete questa inventato un virus qua, che non c'è. Avete questa gentaglia qua non deve prendere medicine perché ti sottrae morti, medicine al sistema nazionale. Tu non devi Italia, prendere medicine, zero, io, fine. Ascolta, rispondi alle domande. Tu senti male, non devi essere avete, curato, hai capito? Siccome sei talmente coglione, ti do i dati Istat. Come mai quest'anno i morti sono inferiori all'anno scorso? Dove è la pandemia? Istat. I morti sono inferiori a quelli dell'anno scorso. Ma non è vero. Comunque gente così. Tu prendi medicine? Ce ne abbiamo 25.000 in meno. Ma tu lo prendi l'aspirina, ad esempio? Tu le prendi le medicine o no? Tu non dovresti prendere medicine. Siccome le medicine le fanno le case farmaceutiche, lascia che le medicine le prendano gli altri. Tu vai a morire ammazzato, rincoglionito. Aspetta, Parenzo, siamo di fronte a una cospirazione globale. La cospirazione. Quando questa la cosa verrà fuori, tutta la sua cospirazione globale. Non avrete posto dove nascondervi. Voi la cospirazione collaborazionisti. Globale. Voi che ma siete collaborazionisti invece che negazionisti. Sembrate quei capo che nel lager vendevano gli ebrei. Uguale. Siete capo del lager. Mi sembra un paragone talmente idiota. Ma dovresti essere contento. La morte certa. Ma prima o poi la verità verrà fuori. Potete usare la forza. Potete blindare le strade, potete chiudere Roma, potete chiudere gli accessi, ma prima o poi a maggio, ricordate le mie parole, andranno in strada tutti disperati che litigheranno per un tozzo di pane, allora scoppierà la rivoluzione, basta aspettare qualche mese. Ma dovevi andare a occupare i centri nevralgici, dovevi occupare no, i centri nevralgici pure Vaticano. Tutto a fare. Hanno ma chiuso due regioni, hanno chiuso due regioni, avete bloccato i treni, avete bloccato gli autobus sulle strade, ma non c'è nessuno, avete bloccato tutto. Io ho postato avete bloccato le strade di accesso, era impossibile arrivare a Roma. Ma dove sono i 100.000? Dove sono i 100.000? La reazione deve nascere da Roma. Se non nasce prima o poi succederà. Ascoltami, gli italiani sono dei poveri idioti tutti che non pure, hanno capito pure, cosa ma non ti vergogni, ma non ti vergogni di identificare gli italiani e di dire che gli italiani sono dei poveri idioti, vergogni tutti idioti, tutti covi idioti, tranne ti il termine, sono tutti dei poveri covi idioti, tutti come conigli chiusi nelle case aspettare di no, morire Parenzo, di fame. Dimmi qualcosa a questo cretino, dai, di cosa fame, ti dico di più. Io l'unica siccome cosa che dico a sto poveretto è che se questo poveretto dovesse anche prendere una minima tossilite non deve usare farmaci. scusami, questo idiota non deve più fare uso di farmaci, perché okay, li toglie a chi ne ha bisogno e a chi invece come me dice che le farmaceutiche fanno un ottimo lavoro assieme alla ricerca allora scientifica. Mi fai parlare quando è finito. Allora, no, ma tu non devi prendere più farmaci. Ma se mi fai parlare, no, tu non devi prendere farmaci. Fermati un attimo, resta il fatto che tu volevi fare la rivoluzione, occupare i centri nevralgici del paese, andare a Roma. Ti hanno bloccato, ti hanno bloccato, messo ai nomi. La quarta ci riuscirò, non ti preoccupare. Secondo Hitler. Ti dico cosa diceva Gandhi: prima ci ignorano, poi ci deridono, poi ci combattono, poi perdono. Ma Gandhi non era fascista. Ma Gandhi non era fascista. Non c'entra fascista o comunista. Verrà fuori la verità. E la verità ma quale sarebbe la verità? Che il virus è una farsa? Che il virus è una farsa? Che qual è la verità? La verità è che questo virus è poco più di un'influenza comune. Quando lo dicevo io che il 95% sono asintomatici, non no, contagiosi. Ma tu dici che c'è il nuovo ordine mondiale, è diversa certo, la cosa. Tu dici... Si chiama New World Order e farà un'operazione che si chiama World Debit Reset, cioè cancellerà la proprietà privata, confischerà i beni ai cittadini in cambio dell'annullamento del debito. Questo è quello che aspetta tutti, mica solo l'Italia. Ma comunismo. Questa è una forma di nazismo esercitato dalla lobby giudaico-massonica. E dovresti essere contento. Gli ebrei nazisti. Sono quei nazisti adesso. Di famiglie di ebrei che sono nazisti? Rothschild, Rockefeller. Ma che c'entra? Rockefeller, scusi. No, aspetti, se no dice una aspetti, sta dicendo una cantonata. Rockefeller non è ebreo. Rockefeller non sta dicendo delle stronzate. Si fermi, Rothschild, certo che sì, ma Rockefeller non è ebreo. Aggiungo io, purtroppo, non è. Ma no, la verità è che tu sei un coglione. L'unica verità è che sei un coglione. Noi israeliani. Ma quale Rockefeller? Rockefeller ti prende, ti compra, ti domina e ti ridomina. Siete i sionisti di merda, vogliono prendere. Ma certo, adesso ti compriamo, mondo. Basta, adesso ti compriamo. Adesso ti compriamo e ti caghiamo. Ti compriamo, ti liofilizziamo e ti rendiamo una merda. Hai capito? Adesso chiamo Rothschild. Chiamo Rothschild adesso. Chiamo Rothschild e io ti compro. Ti compro e ti faccio cagare da Rothschild. Cagare da Rothschild. Ti compro. Io ti compro. Adesso ti compro. Ti liofilizzo, ti rendo una merda e ti faccio cagare da Rothschild. Di merda. Io ti faccio che ti compro. Quanto costi che ti compro? Quanto costi? 1.000 euro. Ti compro. Ti compro. Compro tutto. Ti compro, imbecille. Monsignor Viganò. Ascolta le parole di Monsignor Viganò. Ma cosa dice Monsignor Viganò? Globale. Lo sai chi ma è? Che c'entra la costituzione storico americano? Pagherete davanti al popolo, noi. Tutti i giornalisti pagherete davanti al popolo. In che modo? Salteranno le teste in questo paese. Ciao, ma non ti voglio dire, Franzoni. Ingannarli. Ma vai a fare il culo, Franzoni. Vai a fare il culo. Tutti. Oh no, she's not a secret now. Forse così si chiude l'era Franzoni. Con queste follie si chiude l'era Franzoni. Arrivederci. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.